Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cicci Coccò, tre civette sul Como che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore s'ammalò, ambarabà, Cicci Coccò. Fino a qua mi sembra che sia chiaro a tutti. Questa è un'antichissima filastrocca che le mamme dalla notte dei tempi hanno sempre raccontato ai loro bambini per fare la conta, per decidere a chi toccasse coprirsi gli occhi per giocare a nascondino, per qualunque motivo. L'ambarabà, Cicci Coccò ci segue a tutti, fa parte della nostra vita. Il nostro imprinting alla vita è formato anche su una barabà, Cicci Coccò. Voi direte cosa c'entra? No, c'entra tantissimo. Innanzitutto ha una sua scansione, una sua metrica. È una sestina in quinario doppio, con doppie accentature nella prima e quarta seconda sillaba, che appunto introduce quattro ottonari dattilici di modo. Questo lo dice Umberto Eco, per dedicato nel suo secondo diario minimo proprio un importante saggio sull'ambarabà Cicci Coccò, dandone tutte le versioni in tutte le lingue, spiegare soprattutto la storia che è raccontata e racchiusa in questa sestina. Ci sono una famiglia ipotetica in cui c'è un dottore che ha una figlia. Non è detto la figlia sia minorenne, potrebbe essere anche una zitella tardona cinquantenne, figlia del dottore, a cui è lecito comunque fare l'amore con tre civette che stanno sul comò in quella casa. E altrettanto, anche se alla luce del moderno costume riprovevole, considerare che il dottore non era d'accordo con questa storia d'amore multipla e probabilmente anche saffica della figlia con tre civette. Potrebbe essere anche tre uccelli, tre volatili, ma anche tre amiche della figlia, civette dai costumi particolarmente leggiadri, in cui la ragazza intratteneva rapporti multiplici anche contemporaneamente. Sono fatti i suoi, ma il dottore, probabilmente di vecchia mentalità, questo non lo sopportava, tanto che il dottore s'ammalò. In un'altra versione c'è la mamma si ammalò, perché parlasse che la mamma non ha retto il cuore della mamma a vedere questa figlia che lei mai sognava maritata, sognava sposata, sognava con una famiglia, che si intrattenesse in giochi ludici non finalizzati alla procreazione con tre civette. Comunque sia, non ci piove. Da quando siamo bambini sappiamo che la figlia del dottore andava a letto con tre civette. Fatti suoi, poi, entriamo nello specifico, nella fattispecie tecnica, se questo era un accoppiamento reale, concreto, o ipotetico, onirico. Comunque vogliamo dare libertà alla figlia del dottore di fare quello che vuole con chi vuole. Viviamo in tempi moderni. Eppure una trasmissione dedicata dal servizio pubblico RAI all'educazione dei bambini, dei fanciulli, dovrebbero crescere comunque una mente aperta, libera, disponibile a pensare che sia lecito per la figlia di un dottore fare l'amore con tre civette, ha così corrotto questa filastrocca il nome del politicamente corretto, tanto che la nostra ascoltatrice, tale mamma Lucia, piangendo, indignata, con un groppo alla gola, ci ha scritto e ci ha detto: non è possibile, stavo con i miei figli davanti alla televisione a guardare Rai Yo-Yo, che è una bella trasmissione, sono delle fatine e c'è anche lì il Fantabosco, adesso non so bene, cartoni animati, leggiate, un bel mondo fatto a colori. Le due fatine a un certo punto hanno detto: facciamo la conta, e hanno fatto la conta e così hanno cambiato, in nome di un detestabile principio di totale anestesia di tutte le possibili sfaccettature può avere l'umanità, delle sue improbabili capacità di relazionarsi, così ha deturpato e vergognosamente storpiato quella filastrocca che meritò un saggio del grande Umberto Eco. Tu dovrai indovinare esatto in quale mano ho posizionato l'oggetto. Sei pronta? Proviamo subito. Vai, proviamo, eh. Ah, no, prima abbiamo bisogna decidere chi inizia. E facciamo una bella conta, sì. Ti va? Sì. Allora, sì, ce l'ho. Ambarabà, Cicci Coccò, tre civette sul comò che contavano le ore con il loro amico del cuore. Avete capito bene? Ve la faccio riascoltare. Le tre civette sul comò non fanno più l'amore con la figlia del dottore, ma passano le ore con il loro amico del cuore. Chiaramente hanno un amico gay e stanno con l'amico gay perché quello non dà fastidio a nessuno, perché stanno lì, non sono compromesse, non c'è possibilità comunque di qualcosa che attenga alla sfera fisica. Hanno un amichetto e stanno lì, è il loro uomo trastullo, stanno lì sul comò con il loro amico del cuore. E il dottore, e la figlia del dottore, e tutta la tragedia consumata in quella famiglia, dove è andata a finire? Riascoltiamo. Amrabaci, Cicocò, tre civette sul Comò, che contavano le ore con il loro amico del cuore. Cittadini, cittadini abbonati, voi che pagate il canone, voi che avete diritto comunque a avere dal servizio pubblico qualcosa che aiuti a fortificare la nostra identità di esseri umani, di cittadini, voi che siete così abituati a difendere il diritto della famiglia di essere rappresentata in tutte le sue possibili declinazioni, secondo voi perché la RAI ha tolto una verità ormai assoluta che fa parte comunque della narrativa che ha generato l'immaginario di intere generazioni del fatto che le tre civette sul Comò facciano amore con la figlia del dottore, perché improvvisamente passano le ore con l'amico del cuore? Perché le tre civette dovrebbero un amico del cuore passare le ore? Pensate che noia, quelle povere civette, ma avranno la dignità anche le civette? Avete fatto battaglie per salvare gli agnellini a Pasqua, per salvare i piccioncini nelle città, per salvare i vermicelli dentro il formaggio. Perché non fate una battaglia per le tre civette? Avranno diritto di fare l'amore anche loro con la figlia del dottore, perché c'è una barriera fra esseri senzienti, chiamate civette, e esseri umani appartenenti alla specie umana. Perché le civette non possono accoppiarsi con la figlia del dottore? Perché invece dovrebbero passare ore noiosissime? Pensate, stare su un Comò con un amico del cuore che sta lì, che vi dice: oh cara, come stai? Quanto sei brava? E passano sempre avanti così: cara, sei meravigliosa. E stando lì le tre civette, che belli i tempi in cui ci pappavamo la figlia del dottore, e adesso ci tocca stare qui con sto citrullo tutto il giorno che ci invidia lo smalto che abbiamo sulle nostre unghie. 800240024, oggi ridaremo dignità al diritto che hanno comunque le tre civette di fare l'amore con chi vogliono. Non vogliamo che passino delle ore lunghe, inutili, insulse, bruciano il loro tempo, la loro civettuola vita, a perdere tempo con l'amico del cuore che sta lì e le fa annoiare. E la figlia del dottore, sola, con il cuore spezzato, le sarà finita. E il dottore magari avrà avuto una possibilità di redenzione, di tornare con una mentalità più moderna. Magari non muore il dottore, questo sì. Il dottore è felice, contento, e dice alla figlia: lasciami la civetta anche a me, così magari mi consolo un po', perché la mamma non c'è più. Beh, qualcosa succederà. 800240024. Ridiamo dignità alla Barabà Cicì Cocò. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Ambarabaci, Cicocò, tre civette sul Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore s'ammalò. Ambarabaci, Cicocò. 800240024. Ricordate la Barabaci, Cicocò con le tre civette sul Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore? Il dottore a un certo punto si ammalò. È bello perché è surreale, come nei Q, finisce così, c'è un senso che ognuno può dargli. Comunque sia, si consuma qualcosa di tragico in quella famiglia, allo stesso tempo di sublime. Si rompe la barriera fra gli esseri alati, le civette, simbolo di saggezza, di sapienza da sempre, e la figlia del dottore, che si ribella da questo vincolo familiare così pressante, così antiquato, così arcaico, e fa l'amore con tre civette. Non si sa se contemporaneamente, se singolarmente, e il dottore per questo si ammala. Abbiamo detto poco fa che a Rai Yo-Yo, trasmissione del servizio pubblico, dovrebbe occuparsi di mantenere un filo della tradizione culturale del nostro paese, dei nostri bambini, in realtà ha deturpato questa filastrocca nella seguente maniera. Ambarabaci, Cicocò, tre civette sul Comò che contavano le ore con il loro amico del cuore. Professor Vermondo Brugnatelli, buongiorno. Buongiorno. Il professor Brugnatelli è un linguista, docente di etnolinguistica alla Bicocca di Milano. Innanzitutto, un suo giudizio: è lecito cambiare una filastrocca che affonda le radici una tradizione così lontana come quella Barabaci Cicocò? Insomma, lecito. In realtà le filastrocche hanno tutte delle storie strane e per molti versi misteriose. E spesso ne esistono tantissime varianti, non escludo che una variante così potesse già esistere giusto in ambienti particolarmente puritani, come succede per tante altre filastrocche. Lei sulla filastrocca originale cosa ha da aggiungerci, da dirci? Ci sono, a parte lo studio di Umberto Eco, che è ipotetico quanto naturalmente immaginario, cita delle fonti assurde, ma cosa si sa di esatto sulla Barabaci Cicocò? Ma a suo tempo mi ero occupato della parte, in realtà la parte non significativa, quella che veramente è difficile anche da censurare perché non si sa cosa voglia dire, cioè la parte iniziale, Ambarabà. Beh, è come il Papè Satan, Papè Satan Aleppe, ci può essere un significato profondo. Sì, sì, in effetti questo è, ha trovato un esempio giusto, perché pensi che quando Carlo Porta ha tradotto in milanese parti della Divina Commedia, il Papè Satan lo ha tradotto proprio Ara Belara Descesa Cornara, che era una filastrocca milanese, proprio per fare la conta. Filastrocca che peraltro, per esempio quella lì Ara Belara, l'ho trovata anche in Tunisia, in una raccolta di testi giusto arabi tunisini, l'ara o bellara, Degeja Nagara dice, cioè Degeja sarebbe la gallinella ruspante, e questo Degeja assomiglia tantissimo al Descesa Cornara del milanese, dove si vede che spesso le filastrocche vengono proprio reinterpretate sulla base così di assonanze di ma sulla Baracci Cicocò lei cosa è riuscito a capire di più rispetto a quello che noi da normali utenti l'abbiamo sempre usata così? Barabacci Cicocò, questa stranezza che c'è Cicì e Cocò che si ripetono, è un tipico sistema per fare filastrocche o parole strane tipo BB e Bibò, in cui si raddoppiano cambiando la I in O. Qui però oltre alla I cambia la K, la C che diventa C da una parte. E allora questo mi ha incuriosito, mi ha fatto pensare che la filastrocca risalisse a un'epoca in cui era Cicì Cocò, quindi il suono era K e non era C, quello iniziale. E questo vuol dire che risale a epoca latina, e allora ho cercato un po' di indagare sulla possibile etimologia latina, e mettendo insieme diversi procedimenti mi è arrivata una ricostruzione, per la verità ipotetica, però tutto sommato tutti i miei colleghi linguisti sono d'accordo che è plausibile, di una formula latina tipo hanc para vac quid quid quod quod, cioè questa ripara da questa, come fosse la mano di chi fa la conta, quid quid quod quod, poi sono degli indefiniti tipici appunto delle conte in cui quello che conta è soprattutto mettere dentro delle, quindi diciamo c'è un senso però quasi apotropaico, è una sorta di difesa da un pericolo che potrebbe venire, in questo caso sarebbe giustificabile la morte del dottore che vuole difendersi da questa sorta di disastro familiare dal suo punto di vista, perché aveva una figlia che comunque, diamo un carattere metaforico anche alle tre civette, comunque ha rapporti amorosi, se non intimi, con altre tre persone che sono tre donne. Un po' c'è forse, chi lo sa, il famoso, una presa in giro del famoso medice curate ipsum, giusto l'idea del medico che si ammala, è un po' una specie di paradosso su cui la gente è sensibile. Riguardo invece al tipo di amore delle civette, lei ha accennato al possibile amore saffico, in realtà è un'ipotesi che circola, mi viene in mente quello. Bisogna tenere presente che civetta in italiano è parola femminile, però è femminile come tigre, ma esistono tigri maschi e tigri femmine. Potrebbe essere tre civettoni, civette maschi e civette femmine, quindi ecco. Non è escluso che la figlia del dottore avesse tre fidanzati civettoni, anche. Quindi la riconducessero nell'alveo di una sessualità. Rimane il fatto che il dottore si ammala perché per il carattere dissoluto, per l'affocamento carnale della figlia. Ci sta molto, è stato importante comunque il suo contributo, perché ci ha dato la maniera intanto di contestualizzarla in una cornice più degna. Rimango dell'idea che però l'intervento censoro è totalmente fuori luogo. Sentiamo qualche ascoltatore cosa ne dice. Laura, buongiorno. Buongiorno. Ma io sono molto felice di questo argomento perché mi indigna, un po' mi offende anche. Sì, un pochino. La signora Lucia che ci ha chiamato era veramente, non riusciva a trattenere l'indignazione, perché dice: io faccio di tutto per dare ai miei figli degli strumenti moderni di decodifica anche della relazione. Mi tolgono i figli del dottore che amoreggiano, poi abbiamo già capito, adesso l'esperto ci ha detto potrebbe essere anche tre civetti, quindi escludiamo anche la variante eterodossa. Comunque sia, sta figlia del dottore gli dava sotto di brutto, c'era sempre sul Como tre oggetti di piacere sessuale. In realtà io penso che prima dell'intervento di censura c'è un ragionamento da adulti, no? che vede nella sessualità un qualcosa, cioè ci mette della malizia che il bambino non percepisce. Lei ha ragione, io non so se qualche... E quindi il bambino cresce con una sessualità sana nel momento in cui passano proprio con innocenza dei messaggi assolutamente... Io non so, Laura, non so Laura la sua età, però le dico, io ho 60 anni passati, al mio tempo fare l'amore non significava... l'atto del coito, della penetrazione, esatto. Venivano a casa mia le signore, erano perugine, capirono, la mia fiola fa l'amore col fiol di quello, ma vuol dire semplicemente che hanno fidanzati in casa, capito? Esatto. La tua fiola fa l'amore, sì, la mia fiola fa l'amore, non è che figuriamoci se mai in quelle caste madri sarebbe passato l'idea che la figlia si concedesse carnalmente a dei drudi. No, assolutamente. La figlia era fidanzata, quindi io da piccolo pensavo fanno l'amore, hanno fidanzate, ma che c'era di male? Anch'io c'avevo l'orzacchiotto e mi ci andavo a letto, è la stessa cosa, no? Io pure pensavo quella cosa, però poi ho letto poco tempo fa insieme a mia figlia, che ha 8 anni, un librettino che parlava della famosa fiaba I vestiti dell'imperatore. Nuovi vestiti dell'imperatore. Io pensavo la principessa sul pisello, che era quella più passibile di un sottosignificato. Quella non l'abbiamo ancora trovata. Sarà dura spiegargliela però alla bambina. Quando dice la principessa sul pisello, gli verrà da ridere, è chiaro. In quella fiaba, in quella versione, in quell'edizione, il re non era più nudo, ma era in mutande. Quindi il bambino a un certo punto tra la folla urlava il re è in mutande. No, questa è vergognosa, è vergognosa. Sono rimasta male perché ho detto ma come? Io ho sempre avuto il ricordo che questo re fosse un nudo e questa cosa mi faceva ridere tantissimo. Ma fra l'altro è una frase che ha un senso anarchico di ribellione, dire il re nudo quando un personaggio importante fa una gaffe, dice una stupidaggine o dimostra un lato di debolezza inimmaginabile. Si dice il re nudo, non si può dire il re in mutande, fa ridere. Allora sono andata poi a vedere un po' in internet come venivano tradotte le versioni di questa fiaba e diciamo che quella più ricorrente era il re è senza vestiti, ergo è nudo. È nudo. Quindi ma non esistevano le mutande al tempo. Abbiamo avuto l'immagine di un re nudo, non un re in mutande. Ma non esistevano le mutande al tempo. Si immagina un tempo delle fiabe indefinito, che è qualcosa fra l'alto medioevo e il rinascimento, non si capisce bene. Comunque quello è il tempo, delle fiabe, è tutto, capito? Erano re, principesse, castelli, sono secoli che però più o meno per noi era la stessa cosa. Ma le mutande hanno cominciato a metterle le persone, penso alla fine dell'Ottocento, non so, gli uomini soprattutto, mutande. Sì, assolutamente non ha fondamento, ma è comunque un'operazione che viene fatta a monte da chi vede malizia dove malizia non c'è. Quindi è il tipico, come si dice, simbolico delle fiabe. È l'occhio del prete, come detto. Quindi la RAI ragiona ancora con l'occhio del prete quando racconta le favole. Grazie, Lucia, velocemente. Lucia, sì, l'ascolto. Pronto, Lucia. Sono qua. Ecco, io volevo dire semplicemente che... Pronto? Sì, l'ascolto con attenzione, mi interessa. Semplicemente che mi è successo questo, no? Che mia suocera, parlando così un giorno, ha avuto da dire, ma mia suocera ormai non c'è più. Quindi possiamo dire quello che vuole, tanto è morta. Allora. No, era di una certa età, quindi era anche il momento suo. Ha avuto da dire che loro quando erano fidanzati facevano l'amore. Io ci sono rimasta un po' così, ero già fidanzata con mio marito e dico ma come, cioè così tranquillamente, per cui ho dedotto che questo fare l'amore non era altro che bacine e bacetti. No, vuol dire essere fidanzati, dire un figlio, tuo figlio fa l'amore, sì, fa l'amore con il figlio di quello, vuol dire essere fidanzati in casa. Quindi fare l'amore nell'accezione arcaica e rurale, diciamo, della nostra cultura, significava che il fidanzato una volta a settimana andava a casa della fidanzata, si sedevano sul divano con in mezzo una zia, una vecchia, un bambino, qualcosa, chiacchieravano a distanza sotto l'occhio vigile della parente. Fine, quello era fare l'amore. Quindi è quello, cioè, poi la malizia sta soltanto nell'occhio o nell'orecchio di chi guarda e sente. Chiarissimo, ma questo è un salto culturale abbastanza impervio per gli autori di Rai Yo-Yo, per cui ancora le tre civette sono condannate a passare le ore, che è già un termine denigratorio. Io passo le ore vuol dire che mi annoio, non so che fare. Col loro amico del cuore. Beate loro, ma non beati noi. Continuiamo tra un istante, 800 24 00 24, continuiamo a approfondire il tema del difficile rapporto fra il dottore, la figlia e le tre civette. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ambarabacci, cicocò, tre civette sul gommò, che facevano rumore nella casa del fattore. Il fattore s'ammalò. Ambarabacci, cicocò, ambarabà, ambarabà, ambarabacci, cicocò. Stiamo riproponendo alcune versioni edulcorate ad usum delfini, ma in realtà ad usum cretini, della classica filastrocca Ambarabacci Cicocò, in cui, come tutti abbiamo sempre saputo da quando siamo bambini, che ci sono tre civette sul Comò che fanno l'amore con la figlia del dottore. E a un certo punto il dottore si ammalò. Su questo si può fare un'infinità di interpretazioni, ne faremo qualcuna. Avete sentito una delle versioni edulcorate, ma quella che più ha destato lo scandalo e la disapprovazione dei nostri ascoltatori è quella trasmessa da Rai Yo-Yo, dove le tre civette sul Comò, invece che spupazzarsi la figlia del dottore, questo fanno. Ambarabacci, cicocò, tre civette sul Comò, che contavano le ore con il loro amico del cuore. È chiaro che c'è un chiaro intento di eludere, di annacquare o togliere del tutto la componente sessuale, che è indubbia, sessuale o se non sessuale, relazionale, di un possibile rapporto a tre civette, che possono essere tre civette intese quanto uccelli, ma anche tre uomini come fidanzati, oppure tre donne con cui la figlia del dottore comunque ha un rapporto profondo, sensuale, ma anche sentimentale o anche semplicemente di conoscenza. Talmente tanto profondo e scandaloso in una mentalità probabilmente arcaica, per cui il dottore a un certo punto si ammala. Voi dite, sei tu che stabilisci una causa-effetto tra l'ammalarsi del dottore e il rapporto tra le civette e la figlia? Beh, questo la filastrocca dice, non dà altri elementi di valutazione. Sintetizzando e puntando appunto il suo interesse su questi due episodi, la figlia che ha un rapporto con le tre civette e il padre che si ammala, si immagina che il rapporto di causa-effetto ci sia. Però io vorrei sentire a questo punto una persona esperta e informata proprio per cercare di definire quale può essere l'eventuale componente sessuale o scandalosa in questa filastrocca che ha fatto sì che la RAI l'abbia dovuta censurare. E dottor Emanuele Iannini, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Emanuele Iannini è un personaggio noto, è professore di endocrinologia e sessuologia medica a Tor Vergata, è presidente dell'Accademia Italiana Salute della Coppia, ma in più è un ricercatore di fama internazionale. Lui hanno parlato pubblicazioni scientifiche, università, anche molti giornali per la sua scoperta del punto G. Emanuele Iannini, lei trova che in questa filastrocca ci sia sotteso comunque un rapporto, una parafilia, una possibile componente sessuale? Beh, un contenuto altamente perverso, parafilico, è assolutamente evidente nel censore che ha sentito bisogno di cambiare questa divertente, assurda, surreale filastrocca per bambini. Che non ha mai corrotto nessun bambino, che noi sappiamo. No, direi proprio di no, ma sicuramente ha corrotto la mente di colui che ha pensato bene che fosse opportuno metterci mano, dimostrando così sicuramente un côté perverso assolutamente evidente. Ma perché funziona così, dottore? Funziona così quando un fortissimo censore in realtà ha un suo problema che non dice? Non c'è ombra di dubbio, ci sono infiniti motivi per pensare che l'atteggiamento moralista sia sostenuto nella migliore delle ipotesi dalla invidia, se non, come in questo caso verrebbe proprio da pensare, da un retropensiero appunto perverso. Io sono assolutamente certo che nessun bambino ha mai lontanamente pensato ad un rapporto zoofilo tra le simpatiche civette e la figlia del dottore. È semplicemente un racconto divertente, assurdo, ben rimato, ben ritmato. Poi ecco questa idea del Comò, insomma, voglio dire, è veramente fa anche una, devo dire, una grande nostalgia. pensare a questo, è una notevole tristezza pensare che qualcuno si è sentito il dovere di sprecare inchiostro oppure di battere sul computer delle sciocchezze per cambiare questa filastrocca. Ma infatti nota, dottor Iordini, la cosa non passa impunita, perché la prima mamma che si è accorta esattamente dell'obbrobrio di questo tipo di operazione ci ha subito chiamato, ci ha detto: ma siamo impazziti, dice, ma qual è il problema? Perché fra l'altro nessuno noi nella nostra memoria fanciullesca ha mai pensato lontanamente ci potesse essere qualcosa minimamente, noi, i bambini sono maliziosi, la malizia la possono vedere, ma in questo caso no, le tre civette facevano l'amore, giocavano, non mi ricordo esattamente, ma facciamo un attimo un'operazione, se vogliamo, surreale, mettiamoci nella mente del tristo censore, cosa poteva aver pensato? Che visto i momenti e visto le paure che oggi sembrano ispirare gran parte dell'intelligenza che ha modo di esprimersi, di scrivere e dare modo a polemiche, che magari ci fosse quasi la velata rappresentazione metaforica di un rapporto lesbico, che magari questa aveva tre amiche e il padre per questo è stato male. C'è di tutto, c'è la borghesia del Comò, c'è la zoofilia delle civette, c'è il fatto che le civette si immaginano femmine mentre invece non necessariamente così. Già detto il precedente ospite, si potrebbe essere anche un fidanzato. Potrebbe essere anche una civetta maschia. Poi c'è il fatto che la civetta è un rapace, e quindi anche, come dire, una... ricordo della rapacità, poi questa figlia e poi la punizione di questo dottore che potrebbe essere morto di crepacuore. Ebbene, per pensare a tutte queste cose bisogna essere perversi, questo è assolutamente fuori di dubbio. Quindi diciamo non perversa, certo. Si diverte e basta. No, a me diverte, in questo caso la censura diverte, che mostra veramente che inferni si coltivano dietro molte volte alla pretesa di voler migliorare il mondo o togliere le brutture dal mondo. Ma la censura ha sempre questa cifra di cecità, sordità, incapacità. Cioè il fatto di non essere mai in realtà in sintonia con la realtà, no, questo è proprio tipico di chi sente il bisogno di decidere quello che gli altri devono fare, sentire, leggere, vedere, no? Ecco, coloro che fanno questo di mestiere hanno chiaramente un distacco dalla realtà importante. Per l'appunto, in questo caso, visto che si parla di sesso, sicuramente perverso, questo è assolutamente fuori di dubbio, ma che è comunque comune a tutti questi sforzi censori. Generalmente una persona che è ispirata a godere della vita e non occuparsi di quello che gli altri fanno finché non gli fanno nulla di male al contesto sociale, una persona di questo genere appunto non si preoccupa di quale rapporto. Un'ultima considerazione del dottor Iannini: potrebbe essere che noi abbiamo parlato spesso in termini scientifici e corroboranti della follia che oggi sta aleggiando, di questo terrore per la cosiddetta teoria gender, ecco, che la paura del gender abbia portato anche a cambiare la filastrocca della Barabacci Cicocò. Non lo so, perché quello è un altro tipo di perversione. Direi che lì, in quel caso, c'è un fumus non persecutionis, ma politice, cioè un fumo di un utilizzo politico, e questo lo rende per essere politicamente corretti, dice: leviamo le civette, così nessuno pensa che la nostra è una trasmissione che c'è il gender dentro. Grazie dottor Iannini di essersi prestato a questa cosa che normalmente esula dalle sue specifiche competenze professionali, però ci serviva anche a essere confortati dal suo parere. Grazie Iannini. Valeria, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo. La mia mamma considerava superata le tre civette e mi cantava questa: Ali 1, Ali 2, Ali 3, Scannelli, O Marco, Prisco, Manico d'Ombrelli, Don Limò, Don Limò conta 13 che 13 so. No, ricomincio da capo che non ho capito poco. Allora, lo dica scandendo le parole, com'era? Cosa diceva? Ali 1, Ali 2, Ali 3, Scannelli, O Marco, O Prisco, O Manico d'Ombrello. Ah, quindi diciamo come fidanzato, va bene, O Marco Prisco, anche Manico d'Ombrello, basta che conta funge. 13 che 13 so. E 13 cosa sarebbe 13? Le misure? No, perché era una specie di conta. Ah, vabbè, conta. Noi avevamo anche Ponte Ponente Ponte P, Tappe Tapperugia, ah, sì, Ponte certo. Ponente Ponte P, Tappe Tapperugia. perfetto, lei ci ha dato un elemento in più dicendo che esiste una deformazione di questa filastrocca, ma in senso aumentativo dell'aspetto, diciamo, se vogliamo, divertente, ambiguo, o Giovanni o Paolo o il manico d'ombrello, purché vada bene. Costanza, sentiamo Costanza. Ciao, ciao a tutti. Allora, no, non si può cambiare questa filastrocca, faceva parte appunto della nostra infanzia. Io ho 50 anni, ma ai tempi, appunto, quando si cantava Ambarabacicicocò, tutte le bambine che erano all'asilo, all'elementare, sapevano che era un po' brigantina questa. Ah, quindi voi già eravate già un pochino più scafatelle, capivate che ridevate. Sì, poi c'erano, a seconda dell'età, c'erano anche quelle molto più scafate. E che dicevano quelle più scafate? Vabbè, no, questa è un'altra volta. Non si butta al sasso, si nasconde la mano. Mi dica esattamente, estrapolando il suo ricordo adolescenziale, cosa lei ha pensato delle tre civette con la figlia del dottore? Lo dica, mica è un problema. Noi eravamo tre sorelle, questo mi faceva pensare appunto che erano tre sorelle appunto birichine, e la figlia del dottore era la figlia della, era una nostra amica appunto, e noi tre ci divertivamo, e quella invece no, se ne stava lì a guardare sul comò quello che facevano. Voi eravate, diciamo, di manica larga, erate figlie, sì, e la figlia del dottore la figlia del dottore è una poveretta. Quindi voi eravate le tre civette che si divertivano, lei stava lì poveraccia col padre, sì, a guardare, col padre sempre lì con quella faccia da malaticcio, con quel ricatto, sì, da malaticcia, lei e il padre, tutte e due malaticcia. Mi raccomando, figlia, mantieniti pura, sennò il papà sta male e muore. Infatti, mentre le tre civette erano le tre furbette, che infatti sta bene. Costanza, le sorelle, è andata alla grande e ancora infatti, si diverte benissimo. Edoardo, finalmente. Sì, pronto. Sono contento che mi ha chiamato tutte donne finora. Edoardo, l'ascolto. Sì, buongiorno. No, io volevo dire che qualche mese fa ho notato su Facebook che girava una vignetta che interpretava nel modo più osceno il significato di questa filastrocca. Erano rappresentate come volatili o come esseri umani le civette? Come volatili intenti in un'orgia con la figlia del dottore. Ma i volatili, diciamo, dotati di attributi per orgiare? Ma per orgiare. Nella vignetta non erano mostrati, però era chiaro che... diciamo in qualche maniera mimavano l'atto sessuale. Sì, e com'erano, per capire, no, perché è importante com'erano disposti, in che geometria di disposizione erano le tre civette, per capire. Ma diciamo, una stava di fronte alla figlia del dottore, diciamo nella posizione del missionario. E una sul retro, sì, e un'altra doppia penetrazione, ecco, sì, una cosa del genere, e l'altra simulava un rapporto orale. Però la cosa che mi piaceva dire è che io non ho mai pensato alla luce di questa vignetta, assolutamente che non ho mai pensato che fosse un problema della filastrocca. Qui c'è da parte del censore una confusione profonda tra denotazione e connotazione del linguaggio. Se dovessimo sempre ridurre al significato più letterale, figuriamoci. Che so, per esempio, le poesie, sarebbe morta la vita, si perderebbe ogni bellezza. Dai, pensi la cavallina storda quanto ci sarebbe da scriverci sopra, capito? Mi sembra proprio grottesco. Io ho persino il sospetto che sia stata. Sfermi un attimo, Edoardo, siccome è importante, lo dice. Prendiamo un attimo respiro e dare la linea, perché il suo aspetto sull'interpretazione, quindi la mancanza dello strumento culturale che fa apprezzare l'aspetto metaforico, simbolico e allegorico, è importante. Fra un istante. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Ambrabaci, Cicocò, tre civette sul comò, che contavano le ore con il loro amico del cuore. 800240024, questa è l'infame versione di Re Yo-Yo di Ambarabaci Cicocò. Mi fanno notare molti ascoltatori con acume che, a parte l'aspetto censorio e riprovevole che abbiamo già sottolineato con il sessuologo di fama internazionale Emanuele Iannini, c'è anche un discorso fondamentale: cade la metrica. La metrica è importantissima a dare la scansione del tempo di una conta. Cade l'amico del cuore che passa le ore, cade, e questo è orribile. Vediamo se ci conferma questa idea anche un altro esperto. Andrea Angiolino, buongiorno. Buongiorno. Andrea Angiolino è un autore di giochi, giornalista, autore assieme a Beniamino Sidoti del Dizionario dei Giochi, edito da Zanichelli, in cui ci sono anche le conte. Cosa pensa lei, Angiolino, anzitutto del cambiare una filastrocca e togliere la metrica a una filastrocca? Allora, la metrica è un errore fondamentale, perché giustamente questa è una conta, non è una filastrocca qualunque. viene usata dai bambini in cerchio all'inizio del gioco e a ogni sillaba si conta un giocatore diverso. Potrebbe essere ammessa una variante, e infatti tutte le conte hanno varianti regionali in cui le parole... Ma deve rimanere la metrica. Cambiano. La metrica è fondamentale perché se io cambio il numero di sillabe, falso la conta e quindi falso chi verrà sotto nel gioco. È una sorta di imbroglio, è una cosa assolutamente questo grave. È fondamentale. L'autore, direi io, non pensa che fare una conta cambiando la metrica si dica mettere su una truffa, è una truffa. La conta è importante, la conta è affidare a un giudizio improbabile e non determinabile una scelta. Se cambio la metrica, la scelta non sarà più quella affidata a quel giudizio. Esattamente, infatti la conta, anche se ci sono delle varianti regionali, devono comunque essere già note e condivise da tutti i giocatori, che così si garantiscono che non c'è un imbroglio, perché appunto la conta è quella, il numero è quello e nessuno allunga o accorcia per i suoi loschi. Quindi si è andato a toccare una di quelle che sono le regole fondamentali che reggono l'universo dei giochi, proprio si rompe l'equilibrio, è come fosse un caos, una catastrofe, l'implosione di un buco nero. Esatto, non solo, poi... Il fatto che sia una conta spiega anche perché c'è questa allusione sessuale. Mi spiego, il gioco è uno spazio libero e separato dalla vita normale, quindi noi facciamo la conta per tirare a sorte ed entriamo nel gioco, quello marca il territorio di noi bambini dove gli adulti non hanno niente a che fare. Mi consente, Angelino, esattamente come il rito esce dal tempo profano e entra nel tempo del sacro. Perfettamente. Ora, proprio per ribadire che in quell'ambito gli adulti non hanno... niente a che fare, è un territorio tutto dei bambini. I bambini si permettono di parlare di civette che fanno all'amore, o per esempio in un'altra famosa conta, sotto il ponte di Baracca o sotto il ponte di Malacca c'è l'omin che fa la cacca. Esatto, chiaro, viene richiamato una parola proibita per far che capire si può dire, che si può dire nella conta. Esatto, qui siamo noi bambini, governiamo noi, e quindi questa proibizione, quindi delle parolacce, il censore in realtà con la presunzione di salvaguardare i bambini toglie a loro l'unica gioia che ha un bambino, di uscire dal tempo degli adulti e vivere la sua dimensione di bambino. Quindi è un'azione perversa, totalmente perversa. Sì, anche perché poi volendo ci sono anche delle conte che parolacce non le hanno. Uno sceglie Ponte Ponente, Ponte P, Tappe Tapperugia e si evita tutti i problemi legati. Eh no, ma qui c'è una volontà, c'è una volontà proprio da Torquemada di dire benissimo, restauro laddove c'è il diabolico intervento, l'anima gender che serpeggia nella conta delle tre civette sul Comò, la modifico, ma modificandolo è come se cementasse per sempre quella porta magica che avevamo da bambini per uscire dal tempo degli adulti e entrare nel nostro tempo della fantasia. È uccidere la fantasia dei bambini, è terribile questo, Angelino. Concordo perfettamente. Dopodiché, appunto, le filastrocche sono sempre fondamentali nel gioco, reggono interi giochi, non tanto questa, ma se uno pensa a Uno monta la luna o a Madama Doré o al gioco degli ambasciatori, Quante belle figlie, sono tutte filastrocche che danno un ritmo e un cerimoniale a dei giochi che poi magari si risolvono in un seguimento, in una chiapparella, ma si reggono proprio su quel rituale, su quei versi, su quei ritmi, su quei tempi. Insomma, è veramente un mondo magico in cui man mano che andiamo avanti dell'analisi di questo gesto apparentemente senza conseguenze, ci ha segnalato l'ascoltatrice Lucia, vediamo che c'è un'operazione terribilmente che dichiara terribilmente la mancanza totale di strumenti didattici e culturali per gestire uno spazio dedicato ai bambini. Se avesse fatto Angelino la sceneggiatura di quel programma, non sarebbe mai sognato, è una persona che studia da anni i giochi, di cambiare il ritmo di una conta, perché è come mettere un ceppo ai piedi di un bambino e dire da oggi non esci più dal terribile grigio mondo degli adulti. Grazie Andrea Angelino. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, io volevo dirvi un'altra versione che è più esplicita e più crudele. Premesso che io ho quasi 80 anni e mia madre è nata a fine 800 e siamo d'origine marchigiana, la conta era Abbarabacci Ciccocò, tre lupetti, non civette, lupetti. Tre lupetti su Comò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore li ammazzò. Ah, più terribile ancora. È terribile, cioè è che dà l'idea che chi decide con chi fa l'amore la figlia è il padre, e se lei fa l'amore con chi non vuole, ragione, lui la ammazza. Ah, c'è addirittura dietro una storia incestuosa, terribile. Non incestuosa. E la figlia del dottore faceva l'amore con tre lupetti. Cioè, quei tre allupati fidanzati. Ecco, e il padre non voleva, perciò li ammazzò. Beh, terribile, il padre che impedisce alla figlia di amare tre fidanzati. Esatto. Beh, è crudele. Come mia madre me l'aveva insegnata. E beh, vedi, ancora più crudele, però c'è ancora questo senso comunque di padre vuol salvaguardare la virtù della figlia. Sì. Perché lui si ammala, se lei fa l'amore con le civette, possono essere sempre tre esseri umani con cui lei comunque fa l'amore, ma se sono tre lupetti li ammazza addirittura. Probabilmente, sì. Probabilmente erano vicine in terre in cui era ma possibile. Ma voi nei paesi tuoi? Sì, sì. Ma poi probabilmente sua nonna viveva in una terra dove i lupi c'erano veramente, quindi sì, faccia sì, parte. Sicuro. Di che zona era sua nonna? Macerata. Beh, magari all'inverno scendevano i lupi anche sì, verso la città, sì, quindi cioè, attenzione, ma c'era sempre un intento, diciamo, attenzione, se andate con i lupi poi il papà li ammazza, ecco, questo è il grazie Vittorio, grazie dell'intervento. Emiliano. Ah, salve, no, niente, io non volevo fare grandi voli pindarici, volevo solo segnalare questa cosa qui, che senza... prendere in toto le difese del censore, io cito solamente la mia esperienza personale. Quando ero piccolino, 8-9 anni, l'avrò recitata 50.000 volte questa conta. Sì, quando mai, certo. Ecco, però io ho notato una differenza. Io adesso ho un bimbo di 8 anni, ho notato una differenza. La prima volta che mio figlio l'ha sentita questa conta, rideva. No, mi ha subito chiesto, ma com'è far l'amore? Cioè, ha voluto sapere nello specifico cos'era. Perché oggi i ragazzini sono più scafati. Esatto. Hanno lo smartphone in mano e far l'amore cercano e vedono subito gli appare YouPorn. Bisogna tener conto anche di questo, ma l'antica filastrocca non deve cambiare. Grazie a tutti, abbiamo dato giustizia alle tre civette e soprattutto alla figlia del dottore.